Friday, thank God it's Friday, Friday, thank God it's Friday, grazie Dio è venerdì, ragazzi ce l'abbiamo fatta anche questa settimana, siamo arrivati all'ultimo giorno lavorativo, dopodiché entreremo a capofitto nel Rock and Roll Weekend qui a Rock FM. Oh, ma che maleducato, non vi ho neanche fatto il benvenuto, non vi ho dato neanche il buongiorno, lo faccio adesso. Buongiorno e benvenuti, passerottine e passerottine cari, io sono Chuck Bird. E questo è l'Early Bird Special, la prima colazione che serviamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Vedo delle facce sorridenti fra di voi, e a buon ragione. James Taylor, Your Smiling Faces. Smile myself because I love you, yes I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer, it will grow stronger every day. Long before I met you, now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm doing wrong today. No, no, oh, darling. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. James Taylor, l'Early Bird Special, Your Smiling Faces. Early Bird Special significa grande musica già dalle 6 del mattino e anche qualche chiacchiera sulla storia delle vostre rock and roll star preferite. Ma non corriamo, perché sarà una mattinata piena di grandi cose, come ad esempio The Sweet. Are you ready for some action? Of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Action, action, action. find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, lascia che sia. O non so se siete anche ascoltatori di Pane, Burro e Rock and Roll. Io mi auguro di sì, visto che è un programma veramente divertente. Ebbene, spessissimo Freak Anthony, l'Ariele e l'impareggiabile stegista impagato e impagabile, come dicono, fanno queste canzoni dei Beatles cantate in italiano. Sono la cosa più divertente del mondo. Quindi qua faccio un po' di pubblicità gratuita al programma che seguirà l'Early Bird Special dalle 7 alle 9. Beatles, Let It Be, che lasciano il posto a D&D, che vuol dire Disneyland After Dark. Questa è Sleeping My Day Away. We'll be right back. DAD, che significa Disneyland After Dark. E se c'è un gruppo sul quale si potrebbero girare dei cartoni animati, anche se non credo firmati dalla Disney, questi sono i Ramones. I fans sicuramente lo sanno, ma forse qualcuno di voi ignora il fatto che i Ramones furono protagonisti di un film significativamente intitolato Rock and Roll High School. La storia era semplice ma divertente. C'era una scena dove i Ramones suonavano in un club. Il gruppo venne ripreso mentre si esibiva dal vivo al Roxy e tre differenti gruppi di persone assistettero a tre differenti show. Quello delle 8 di mattina era ad ingresso libero, mentre al pomeriggio il costo era di $1. Il costo del biglietto del concerto serale era invece di $5. Per 18 ore, ripeto 18 ore, i Ramones non fecero altro che ripetere lo stesso set di canzoni. Nella colonna sonora fu inclusa un medley di Blitzkrieg Bop, Teenage Labarme, California Sun, Pinhead e She's the One, della durata complessiva di 11 minuti. Quando la troupe finì di girare all'1 del mattino, i Ramones continuarono a suonare. Come racconta Johnny Ramone, chitarrista della band, non è stato giusto nei confronti dei ragazzi che hanno sborsato $5. Hanno potuto sentire solo 4 o 5 canzoni ripetute ognuna una decina di volte. Dopo altri 8 pezzi però quelli della troupe ci hanno staccato la spina perché volevano andare a dormire. I Ramones, infaticabili macchine da rock and roll, all'Early Bird Special con Rockaway Beach. Rockaway Beach, se magari si potesse andare in spiaggia il 26 ottobre. Non so dove siete voi, ma qui sicuramente non lo si fa più. I Ramones concludono questa prima parte dell'Early Bird Special e a questo punto mi sono meritatissimo la mia tazza di caffè nero bollente. You could Peter Gabriel e il suo martellone, ancora una volta qui all'Early Bird Special. Questa è la colazione che vi offre Rock FM. Grande musica e qualche chiocchiera da questa boccaccia. Ehi ragazzi, vi va una storiella su Janis Joplin? Io, conoscendovi, credo proprio di sì. Beh, il sogno di Janis Joplin quando arrivò a San Francisco non era quello di diventare una rock and roll singer. Per tirare a campare vendeva droga per High Asbury, il quartiere hippie, e cercava un posto per dormire, magari con qualche bel fricchettone simpatico a tenergli caldo il materasso. Se si metteva a cantare qualche cosa era giusto per tirare insieme i soldi per farsi una birra, tutto qui. Poi, ad un certo punto, qualcuno gli chiede di fare un provino con una band vera. In un'intervista Janis ebbe modo di rivelare. E così i musicisti cominciarono a suonare, la musica mi arrivava da dietro. Il basso mi stava letteralmente venendo addosso e mi caricava da impazzire. In quel momento ho deciso che quella era la cosa giusta da fare. Da allora non ho voluto fare nient'altro. Era meglio di una scopata. Meglio di qualsiasi uomo avessi provato prima di allora. E forse il problema stava tutto lì. Janis Joplin, una che col blues ci faceva letteralmente all'amore. Come on, come on, come on, yeah, take it! Janis Joplin sarà sempre gradita ospite qui all'Early Bird Special. Una voce, una personalità che ha influenzato tutte le ragazze che dopo di lei si sono volute cimentare con il rock and roll. Da Chrissie Hynde dei Pretenders fino a King Gordon dei Sonic Youth, passando da Debbie Harris dei Blondie, che una volta sentì dire che quando era cameriera al Max Kansas City, uno dei club rock più alla moda di New York, una volta servì una bistecca a Janis Joplin, che era lì per un concerto. Disse che Janis era una persona estremamente gentile, giù dal palco e sul palco una cantante straordinaria. Chissà se le ha anche lasciato una mancia. La prossima volta che incontro Deborah glielo chiederò. L'Early Bird va avanti col vento in poppa, con l'alba che sta finalmente facendo piazza pulita delle tenebre. Van Halen, Feel So Good.

Alice Cooper ci parla delle donne, e a proposito di donne, come diceva il professor Garrison di South Park, io non mi fido di una cosa che sanguina per 5 giorni e poi non muore. Oh, Cherie, non te la pigliare così, in fondo South Park è solo un cartone animato. Ehi, con noi anche Cinderella. Sometimes Cinderella coming home, andando a casa. Ragazzi, il vecchio Chuck Bird se ne va a casa, perché è giunto il termine di questo Early Bird Special del venerdì. Ma per voi le sorprese non sono finite, perché da qui a stasera, ragazzi, ce n'è veramente per tutti i gusti. Iniziando con l'Ariele Freak Anthony, alla grande con pane, burro e rock and roll, versione del venerdì. Il mio tempo è scaduto, l'Early Bird Special chiude qui, ci risentiamo lunedì dalle 6 alle 7. Aloha!